tributi e mercati di qua, due di denari di là, la burocrazia che confonde la gente da illustrar, con Deborah e il buon Mauro a spiegar, da questa emittente anche tu ti potrai informare. Due di denari Meazza e la Rosciani con ospiti mondiali che i tuoi denari sapran fruttar. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Put your number in my phone, put your number in my phone, I hope to get some time alone, I wanna get. E niente, caro Mauro, cambiare operatore telefonico è già un'avventura. Se poi tu lo cambi, ma vuoi mantenere il tuo vecchio numero di telefono e addirittura chiedi di mantenere il numero di telefono della linea fissa, apriti cielo, perché qua devono intervenire ma i giudici. Ma come? Ma non è possibile. Buongiorno cara Deborah, benvenuta a Due di Denari, mi fa piacere trovarti qui in studio. Ma scusa, c'è la portabilità, è sì, una certo. prassi abituale oramai da anni, anni, anni, anni. Allora, ci sarebbe la portabilità se ma? Funzionasse, allora, diciamo che funziona quasi sempre e però ogni tanto qualcuno inciampa in qualche disavventura. Allora, ti leggo un po' la storia che abbiamo trovato sulla Nazione, edizione della Spezia. Sì. Quando cambiamo operatore telefonico, tutti vogliamo mantenere il nostro vecchio numero ed è la cosiddetta portabilità, presupposto fondamentale di tutta la vicenda. Ma se dopo 18 anni, stipulando un contratto, ve lo perdessero? È un bel problemino, effettivamente. Questo è accaduto, e quanto è accaduto ad un consumatore che si è visto riconoscere però il relativo danno dal Tribunale della Spezia. Il giudice Nella Mori, che salutiamo, ha quantificato la perdita e quindi questo danno in 1800 euro, arrivati a 2000 per gli interessi. Una vicenda iniziata nel febbraio del 2012, quando questo signore ha formato un contratto con una grande compagnia di telecomunicazioni, forse la più grande, è una straniera che opera molto attivamente anche in Italia, con la previsione di portabilità del suo precedente numero telefonico fisso in uso dal 94, quando era stato attivato da Telecom. La cosa però, la portabilità, non è mai andata a buon fine, la linea non funzionava e così per diverso tempo sono rimasto completamente senza utenza. Chi componeva il numero riceveva un messaggio che lo indicava come irraggiungibile, quindi ha chiesto il recesso dal contratto. Sono tornato a quella che poi è diventata Team, ma nel passaggio qualcosa non è andato per il verso giusto e il numero è stato assegnato ad una terza persona, per la precisione ad una casa di riposo per anziani. Vuoi terminare tu? Eh sì, perché a questo punto allora è stato riconosciuto un indennizzo, perché questa perdita di numerazione, e qui sta il punto, se volete, di diritto anche curioso e interessante, è stato riconosciuto una perdita di numerazione, danno da perdita di numerazione per 100 euro per ogni anno del precedente utilizzo. Non sono stati riconosciuti indennizzi né di natura patrimoniale né non patrimoniale, non so, uno potrebbe sostenere non avevo il numero, quindi magari mi cercavano per farmi le proposte di lavoro e non mi potevano trovare. Infatti, esatto, tra l'altro il danno potrebbe essere quantificato anche in qualcosa di più importante, proprio considerando i danni potenziali. Però il giudice ha optato per una compensazione molto circoscritta. In ogni caso, circoscritta o no, ci informa il legale che in realtà devono ancora pagare, quindi l'operatore straniero, quello che insomma si è smarrito il numero nel passaggio, me ne vado da uno, vado in un altro e poi torno indietro, l'operatore straniero ancora deve pagare. Siamo per adesso a un mese e mezzo, insomma, di attesa del denaro. Vabbè, senti, io sono 6 mesi che sto aspettando che mi venga disposto l'addebito automatico sul mio conto corrente per la bolletta del telefono di mia mamma, ma non riusciamo a fare questa operazione, vedi un po'. Cioè, tu stai cercando di pagare qualcosa, esatto, ma non riesci. Ma la compagnia non vuole, preferisce affidarsi ancora al caro vecchio bollettino di carta che arriva a casa di mia mamma, quindi devo farla spostare, andarla farla andare a pagare. Vabbè, detto che può farlo tranquillamente, ma visto che tutti ci invitano a pagare con la moneta elettronica, a snellire anche questi pagamenti, non si capisce perché io non riesco a farla. Quindi faccio un deal a due di denari in diretta. Ma guarda, hai fatto proprio bene, perché poi questa vicenda di carta non voluta, talvolta neanche ricevuta, di queste vicende qua parleremo tra pochissimo. Davvero? Sì, con sì, un amico di due di denari. Sì, lo so. Perché oggi affrontiamo ben due temi. Sì. Da una parte, non so se hai fatto caso in questi bollettini che ti mandano, se ancora ti addebitano gli elenchi telefonici. Sai che devo andarci a guardare, ecco, perché guardaci, così almeno trovo un altro argomento per litigare, va, per dire la mia. Perché, come ci spiegherà un esperto di valore mondiale, cioè Luigi Gabriele, ancora c'è questo uso di addebitare, sì, gli elenchi telefonici, che io ad esempio personalmente non vedo da anni più. Io in realtà però, qualche non mi ricordo adesso quanti anni fa, ma sicuramente non più di due anni fa, nell'androne del mio condominio, la bella mucchia lì di elenchi l'ho vista. Ma allora chiediamolo, non l'ho preso, non l'ho portato a casa naturalmente, però c'erano. Chiediamolo agli ascoltatori, 800 24 00 24, per parlare in diretta, 349 238 6666 per messaggi, sms, whatsapp. Pagate ancora gli elenchi telefonici ma non li vedete più, esatto, oppure ricevete gli elenchi telefonici e magari non vi chiedono di pagarli, perché esatto, anche questo potrebbe essere il caso. Ma soprattutto i numeri di telefono che vi servono li andate a cercare, nel caso, sull'elenco telefonico di carta che avete in casa. Ma questa pure magari sarebbe un'altra bella visita. Magari qualche affezionato c'è, sì, ancora. Non si, la carta, poi sai, io resto sempre molto affezionato carta alla canta, carta. Carta canta. Senti, invece oggi è mercoledì, ma ritorniamo anche alla nostra abitudine di parlare un pochino di lavoro. Ma oggi faremo di più. Oggi parleremo degli orfani della flat tax. Sai che l'anno scorso c'è stata questa flat tax per gli autonomi, sì, flat tax. Questa o quell'altra? Aspetta, c'era flat tax. Comunque tu voglia metterla all'inglese, sì, o all'americana, c'era questa possibilità con alcuni vincoli e parametri. Però dal 1 gennaio i vincoli e i parametri sono cambiati, quindi c'è qualcuno, abbiamo esatto, stimato un mezzo milione di persone, che improvvisamente si è trovato tagliato fuori dalla flat tax. Esatto, quando si dice poter fare una bella pianificazione della propria vita professionale perché c'è certezza della legge nel nostro paese, no? Guarda, ma pensa. E allora lì avremo un esperto di valore mondiale che ci spiega cosa fare. Intanto io ho anche messo sul Twitter, hai fatto bene, una indicazione di un ottimo lavoro fatto dagli amici Cristiano Dell'Oste e Gavelli sul Sole 24 Ore, sul sito del Sole 24 Ore, proprio manuale di sopravvivenza per gli infatti orfani della flat tax. Noi invece oggi vi racconteremo, appunto proprio per parlare di questo argomento, di uno studio molto dettagliato realizzato in questi giorni dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Senti, volevo salutare l'amico Massimiliano che ci scrive sul Facebook, sì, i soldi meglio spesi ad inizio 2020, l'acquisto del vostro libro chiaro, esaustivo e fatto da chi con il pubblico comune ci parla tutti i giorni e comprende al volo i limiti e le esigenze di chi ascolta e legge. Complimenti vivissimi. Grazie Massimiliano. Ma grazie, sono confuso e anche un hai po' visto? Commosso. Allora, da guarda, citazione. Allora, intanto che ti racchiudi in preghiera e magari fai versare versi qualche lacrima, io ti racconto il giornale radio del risparmio di oggi. Va bene. E adesso, signore e signori, il giornale radio del risparmio. Perché? La domenica mi lasci sempre sola per andare a... Sì, tra l'altro qui potrei anche raccontare l'altra mia avventura per cercare i biglietti per andare a vedere la mia partita, che ovviamente, contrariamente magari a quello che pensa la gente, che noi andiamo a vedere partite gratis, spettacoli gratis, non mi è mai successo. Esatto, neanche a me. Intenzionata a pagare, ho fatto una gran fatica a trovare i biglietti della squadra di calcio, quella dove segna quella lì, moltissimo il pensionato. Sì, che adesso c'ha pure il codino lì che va tanto di moda. Sì, sì, ma non la racconto questa, non la racconto questa vicenda perché non mi interessa, però raccontiamo invece di questi nuovi procedimenti sulle società di serie A. Eh sì, perché qui c'erano delle clausole, anzi ci sarebbero delle clausole vessatorie nella vendita degli abbonamenti e delle partite di calcio. Lo ha segnalato l'autorità garante della concorrenza del mercato, cioè l'antitrust. In particolare sono nel mirino le clausole che non riconoscono ai consumatori il diritto a ottenere il rimborso di una quota parte dell'abbonamento se, per dire, lo stadio non è agibile, viene chiuso una parte dello stadio, a ottenere parte del rimborso dell'integrale del titolo di accesso, del biglietto, se la partita viene rinviata per qualsiasi circostanza e addirittura anche a conseguire il risarcimento del danno se questi eventi sono direttamente imputabili alla società. Insomma, in tutti questi casi, secondo l'autorità garante della concorrenza del mercato, ci sono le clausole vessatorie nei confronti degli abbonati e di coloro che, come te, vogliono andare allo stadio a vedere la squadra del cuore. Ma non trovi biglietti perché sono tutti all'appannaggio appunto degli abbonati, dei club, dei tifosi, cosa che io non ho, per carità, niente da contestare, ma non si capisce perché se io mi voglio organizzare per andare a vedere una partita di calcio, magari un mese prima di andarci, perché devo andare a Torino, ci voglio portare mio nipote che devo portare da Ancona, eccetera, invece no. Ho la possibilità di acquistare biglietti solo 3 giorni prima della partita con prezzi fuori dalla grazia di Dio, e questa è la mia denuncia personale di questa vicenda. Va bene, ma al netto dei tuoi disagi, sì, esatto, questa voglio ben due, sono una donna disagiata, ti voglio dire che comunque in questi procedimenti istruttori riguardano addirittura 9 squadre di calcio di Serie A, tutte, c'è la mia, c'è la tua e ma vado in ordine alfabetico. Bravo. Così non ci sono torti per nessuno, non in ordine di classifica: Atalanta, Cagliari, Genoa, Inter, Lazio, Milan, Juventus, Roma e Udinese. Ottimo, quindi appurato che l'alfabeto lo sai. Sì, sì, me le hanno messe grazie a Marco Lombardo che me le ha segnate in ordine alfabetico, così non abbiamo fatto torto a nessuno. In realtà mi ha messo la tua squadra, me l'ha messa fuori posizione dopo il Milan. Sarà stato lo zampino del conduttore precedente, cioè di Alessandro. Non ne voglio sapere niente di queste vicende tra di voi, ragazzi. Allora, senti un po', andiamo a Bari invece, va? Sì. Dove ieri la Fiera del Levante, convocati dal CITI, il sindacato italiano per la tutela dell'investimento e del risparmio, si sono riuniti tutti quei clienti della Popolare di Bari, che sono anche azionisti ed obbligazionisti di questa banca, che probabilmente vedranno sfumati tutti i loro investimenti e quindi chiedono già di capire come potersi tutelare da questa mala sorte. Allora, i giornali riportano cifre diverse, c'è chi parla di 350 risparmiatori presenti a questo raduno, chi 400, ma in ogni caso le cifre poco importano. Nella sostanza si parla di azioni risarcitorie, di costituzione di parte civile nei procedimenti penali, di richiesta di accesso al FIR, il fondo indennizzo risparmiatori, che sta già risarcendo gradualmente le vittime dei precedenti crack bancari, dei quali parliamo, in particolar modo le 4 banche risolte nel novembre del 2015 e poi le 2 venete. Allora, il punto è che non si sa bene, visto che questa vicenda ancora non si è delineata definitivamente una volta per tutte, non si capisce bene appunto che tipo di iniziative queste persone potranno intraprendere. Il punto divertente è che ieri, per poter iniziare le sue iniziative appunto di tutela legale, Domenico Bacci, questa organizzazione, ha chiesto una cifra di adesione a queste persone tra le 100, 200, 250 euro, e pare che proprio in quel momento l'assemblea si sia particolarmente arroventata perché si sono sentiti un po'... posso utilizzare un termine, però vabbè, un concetto che è abbastanza... Si sono impermaliti? Si sono un po' sentiti cornuti e mazziati, ecco. Detto questo, però insomma, qualunque persona per... un'iniziativa di carattere legale qualcosa deve pagare. Queste cifre a noi sembrano simboliche, l'importante è poi che questa iniziativa vada a buon fine, anche se ancora forse è un po' troppo presto per dirlo. Ma soprattutto, il fondo di indennizzo ha una dotazione di 1,5 miliardi e a malapena credo che sia capiente per tutelare le persone degli altri crack, quindi o questa quota si incrementa, implementa in qualche maniera con un'altra iniziativa legislativa, o non so se ci possono entrare anche loro, però seguiremo da vicino anche questa vicenda. Speriamo che non restino invece cornuti e mazziati coloro che chiederanno i rimborsi per le code sulla A14. Guarda, questa ci dobbiamo impegnare a seguirla, Mauri. Invitiamo gli ascoltatori a raccontarci se hanno già fatto una visita nel sito di Autostrade per l'Italia per capire come funziona questa procedura di indennizzo. Sì, perché da oggi comunque è possibile ottenere i rimborsi, cioè fare la domanda per ottenere il rimborso per chi nelle giornate del 5, 6 e 7 gennaio avesse subito ritardi significativi nei tempi di viaggio lungo le tratte della A14, quelle che sono vincolate, limitate da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Allora, la richiesta si può inviare alla casella di posta elettronica info@autostrade.it, deve essere corredata dalla ricevuta del pagamento, questo documento però non è necessario se uno ha usato il telepass o una qualche carta. Benissimo. E il rimborso verrà disposto, così annuncia la società Autostrade, tramite bonifico bancario. Benissimo. Adesso apriamo il nostro sportello reclami. Dillo a due di denari. Quando parlerete di quella grande truffa di Stato dei registratori telematici che siamo obbligati a comprare a spese nostre, noi commercianti e artigiani, ho speso 500 euro per un registratore di cassa stamattina. Lo so che è una nota dolente questa, la vuoi affrontare tu? No, a me spiace. A me spiace se il signore è stato così portato. Mi risulta che ci sia anche un piccolo incentivo fiscale da questo punto di vista per l'adeguamento. Non credo che copra integralmente la cifra. Mi permetto... 500 euro, ho sentito anche qualcuno che ne ha spese 1000, forse ha comprato un dispositivo un po' più sofisticato, non so. L'adeguamento per così tenere il passo con l'invio dei corrispettivi, che è la formula, diciamo, fiscale per questa vicenda di scontrini elettronici, di cui prima o poi ci occuperemo anche qui a Due di Denaro. L'adeguamento è evidente che ha un suo costo. Ripeto, mi pare che ci sia un piccolo aiuto anche per chi sostiene questo tipo di spese. Un aiutino, come direbbe Raffaella Carrà. Un aiutino. O gli ascoltatori che chiamavano. Diciamo un aiutino. Posso fare, se l'ascoltatore non si offende, farei una battuta, visto che l'abbiamo comprato e ci è anche costato, adesso usiamolo, che facciamo degli scontrini. Ma come sei trasgressivo stamattina, anzi audace nei consigli. Sì, è un consiglio audace, mi rendo conto. Sentiamo i consigli audaci invece che riguardano le utenze telefoniche. Piange il telefono perché lei non verrà. Allora, qualche mese fa è arrivato il bollettino per il pagamento dell'elenco telefonico, ci racconta prontamente un ascoltatore sul WhatsApp. Credo che i miei genitori lo abbiano sempre pagato ogni anno quando erano in team all'interno del contratto telefonico. Io adesso devo dire anche citare le società, ma non è che qua ne abbiamo un milione, 3 o 4 sono di compagnie di telecomunicazione in Italia, quindi le citiamo abbastanza facilmente. Visto che l'estate scorsa hanno cambiato compagnia, ci è arrivato questo bollettino di 4 euro circa. Lo abbiamo pagato, visto che purtroppo bisogna fare richiesta per la disattivazione del servizio, e io lo farò il prima possibile. Pronti via! Ma allora, dunque, qui è un plebiscito, cara Deborah. Stavo guardando le telefonate arrivate all'800240024 e tutti ci dicono: ma noi stiamo pagando gli elenchi telefonici, ma manco più li vediamo questi elenchi. Allora, Luigi Gabriele, editor di consumerismo.it, buongiorno, bentornato Due Denari, Luigi. Buongiorno. Allora, ma com'è sta vicenda? Ci fanno ancora pagare gli elenchi telefonici, ma manco più ce li consegnano? Come funziona? Lo vogliamo dire che Meazza e Rosciani sono stati esentati, così come nell'ingresso negli stadi? Sì. No, sto scherzando, ma volevo dire semplicemente che gli italiani non sanno che possono chiedere in maniera formale, però, e consiglio di farlo in maniera scritta anziché in maniera come alcuni dicono, l'ho scritto telefonicamente. Sì, dematerializzata. Esatto, non chiamando il 187, che è una possibilità, perché ricordo c'è un solo operatore che applica 3,90 euro nelle bollette, perché storicamente era l'operatore monopolista, di monopolio, e che aveva anche l'obbligo in qualche modo di fornire a pagamento l'elenco telefonico. I consumatori possono chiamare 187 oppure inviare una comunicazione e chiedere disdetta circa la ricezione dell'elenco telefonico, che poi tra l'altro tutti sanno sono molti anni che quasi più nessuno vede. Io ho avuto il piacere di incontrarne qualche centinaio parcheggiati negli androni di alcuni palazzi a Roma dove abito, e da lì mi è venuta la voglia di capire che cosa stava succedendo. Ho sentito l'autorità per le comunicazioni, l'Agicom, che mi ha confermato che già da molti anni esiste questa procedura per poter chiedere la disdetta non solo della ricezione ma anche del pagamento di questi 3,90 euro. Il problema è che gran parte dei consumatori ovviamente non lo sa, e noi oggi li stiamo informando con voi. Ottimo. Allora, come si fa per poter chiedere la disdetta? Quindi ribadiamo un po' le linee guida, Luigi. Allora, l'autorità dice che si può fare anche attraverso il servizio clienti del 187. In teoria basterebbe questa telefonata registrata, il consumatore chiede di registrarla e il servizio cliente dovrebbe renderla esecutiva. In caso in cui ci vogliamo togliere uno scrupolo ulteriore, mandiamo una comunicazione invece alla team, sempre al servizio clienti attraverso il fax della team, trovano tutto in comunicazione in bolletta. Ma ricordatevi che se anche cambiate l'operatore non avete effettuato la disdetta della ricezione dell'elenco telefonico, e quindi il non voler più pagare questi 3,90 euro, continuerete a ricevere sempre questo balzello. Un'altra cosa, vi consiglio anche di fare contestualmente l'iscrizione presso il registro della Fondazione Bortoni, perché paradossalmente questo caso degli elenchi telefonici, nonostante vecchio, di decine ormai di anni, si collega con i famosi servizi a valore aggiunto, i VAS, quelli che si applicano sui telefonini nel momento in cui, oppure vi chiamano a casa per le chiamate non richieste, per i contratti non richiesti, perché l'essere presente nell'elenco telefonico dà la possibilità a qualsiasi operatore commerciale di prendere il vostro numero e di chiamarvi. C'è un ascoltatore, Luigi, che scrive: carissimi, aggiungeteci pure, se questa non la sai, Luigi, vai ad indagare e poi ci riporti quello che hai scoperto, il noleggio delle spine Telecom che ancora molti pagano in bolletta. Cosa sono le spine Telecom? Cioè quelle per poter attivare l'utenza telefonica, quindi proprio tutto il collegamento? Sto cadendo dal pero. Adesso ecco. La prima cosa che farò, chiamerò il direttore della divisione consumatori dell'Agicom, sì, e chiederò anche questa. Li faremo sapere subito. Allora, tra l'altro poi c'è anche una terza via che voi suggerite per poter eventualmente chiedere la restituzione di questi 3,90 euro che noi paghiamo appunto in bolletta per utilizzare eventualmente l'elenco telefonico cartaceo. Se dovesse persistere la compagnia nel farci pagare questo importo, addirittura voi suggerite di chiedere una risoluzione della controversia attraverso il portale conciliaweb.agicom.it. Sì, perché è noto che non tutti vogliono rinunciare a un diritto acquisito, ovvero mi riferisco soprattutto alle aziende telefoniche che cercano di ostacolare i consumatori nel effettuare questa disdetta, e quindi consigliamo, nel momento in cui l'operatore TIM fa resistenza, il consumatore può adire eventualmente con il sistema ConciliaWeb, che è un sistema telematico, può farlo anche da solo o attraverso un'associazione consumatori, può richiedere non solo la disdetta ma eventualmente anche l'indennizzo per il disagio subito e il tempo che ha dovuto perdere per effettuare una semplice disdetta. Allora, intanto, ricordo però, sì, scusami Deborah, vorrei dire che non si possono chiedere i soldi per il passato, si può solo effettuare la disdetta per il futuro. Assolutamente, no, intanto nel giro di 3 secondi a due di denari sono arrivate una marea di telefonate all'800 24 00 24 con testimonianze che hanno natura diversa. Giancarlo da Teramo dice sta pagando gli elenchi telefonici senza nemmeno riceverli. Antonio da Lucca, elenchi telefonici vengono addebitati in bolletta. Vittoria da Milano, elenchi telefonici ultimi arrivati sono del 2017 ma non sono più addebitati in bolletta. Giovanni da Brescia, non si riesce a disdire l'addebito per gli elenchi telefonici. Qua abbiamo veramente testimonianze, tutto il panorama, tutto il più trapletora possibile. Io faccio un'ultima considerazione da avvocato del diavolo invece, Luigi, ma se io invece l'elenco lo volessi perché io voglio cercare i numeri sulla carta, sì, esatto, e non, ma me lo consegnano. Però tu hai abitudini strane, sì, sì, in questo caso vai salvaguardato anche tu nel caso, nel un panda praticamente, esatto. Nel momento in cui lo paghi è un tuo diritto riceverlo, quindi in teoria dovresti chiamare il servizio cliente dell'operatore e dire io sto pagando, fatemelo avere a casa, anche perché non è più nominale come una volta, se ci avete fatto caso adesso vengono parcheggiati fisicamente all'interno degli androni del mercato. Esattamente quello che ho detto prima. Esatto, quindi io ho la presunzione e spesso anche il dubbio di pensare che in realtà l'operatore non soddisfi nemmeno tutta la necessità di cui dovrebbe soddisfare, ma stampi a caso, fornisca a caso, e pur facendoci due conti, se vogliamo soltanto 10 milioni di utenze, mi sto tenendo largo, per 3,90 euro sono circa 40 milioni di euro, quindi non vorrei... Che comunque non sono da buttare via. Esatto, quindi potrebbero indennizzarci come invece tutti... accade agli elenchi, che spesso no, sono solo da buttare ci via. Ci potrebbero indennizzare tutte le vittime della bolletta per 28 giorni. Che battuto. Non parlare del danno ambientale. Va bene, e allora facciamo così: restiamo in ascolto, Luigi, della tua verifica che abbiamo ti abbiamo invitato a fare sulle spine. Restate in ascolto di Due di Denari, perché su questa vicenda degli elenchi telefonici, magari se vuole poi anche chiamarci l'operatore, il gestore, così, sì, di cui abbiamo parlato, noi siamo ovviamente sempre a disposizione. Grazie a Luigi Gabriele, editor di consumerismo.it. E adesso, cara Deborah, è il tuo momento, il momento della borsa. Che la vaga ben, che la vaga mal, la borsa vogliamo ascoltare. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta acquisto noleggio. Perché scegliere quando puoi averli tutti e due? Nasce Noleggio Chiaro, il primo noleggio a lungo termine di Fiat Chrysler Automobiles che ti permette di scegliere oggi l'auto che desideri e ti dà la possibilità di acquistarla dopo 3 anni a un prezzo garantito. Ad esempio, Alfa Romeo Stelvio è tua da 399 euro al mese con RCA, furto incendio, copertura danni e manutenzione inclusi nel canone. Offerta valida fino al 31 gennaio e soggetta ad approvazione Lisis. Durata del noleggio 36 mesi, anticipo 12.200 euro. Info su noleggiochiarofca.it. Spesso i buoni affari hanno bisogno di decisioni rapide e di informazioni utili in tempo reale. Scarica l'app di Credit Reform e puoi leggere subito e ovunque tutte le informazioni sulle aziende europee che ti interessa conoscere meglio. Credit Reform App, semplice, rapida, conveniente, da smartphone e tablet. Credit Reform, primo in Europa per le informazioni commerciali. 800 42 53 25 o creditreform.it. Due di denari. Dov'è il nuovo lavoro? E allora, fate parte di coloro che lo scorso anno hanno aderito al regime della cosiddetta flat tax. Siete consapevoli delle modifiche messe in atto quest'anno per il regime cosiddetto forfettario? Sapete come comportarvi? Se non lo sapete, stamattina proviamo a spiegarvelo noi. Sì, perché cos'è successo? Detto proprio in due parole, che con le regole che erano in vigore nel 2019 c'era una certa tranquillità di aderire, specialmente anche per chi aveva redditi da lavoro dipendente comunque di qualsiasi natura, cioè uno poteva benissimo avere un lavoro dipendente e guadagnare anche un reddito cospicuo, non so, 40, 50, 60 mila euro l'anno. E poi fare una consulenza, un'attività professionale di altro tipo e quella e gestirla fiscalmente. Farla confluire, esatto, in questo regime della cosiddetta flat tax per gli autonomi con una tassazione particolarmente ridotta. Non che fosse, come dire, una modalità che piaceva a molti, molti l'hanno anche contestato, dice ma perché se già hai un reddito alto e devi trovare anche un lavoro aggiuntivo, devi pure avere un vantaggio fiscale. Allora, che cosa è successo? Che quest'anno il governo che, come sapete, ha modificato la sua maggioranza, sì, perché pur avendo mantenuto lo stesso Presidente del Consiglio ha modificato la maggioranza, ha mirato questa misura che non è stata abolita ma è stata corretta pesantemente e ha deciso che questa misura doveva restare su un obiettivo, quello di agevolare chi avesse perso il lavoro o non riuscisse a trovare il lavoro, quindi intendeva avviare un'attività in proprio e quindi questa doveva essere l'agevolazione. In sostanza ha messo un limite molto più severo, cioè 30.000 euro di importo massimo annuo. Se uno supera quella cifra lì come reddito di lavoro dipendente o assimilato al lavoro dipendente, ebbene non potrà più utilizzare la flat tax. Questo anche per chi l'ha scelta l'anno scorso. E questo significa dire fare ciao ciao ad almeno 10.000 lavoratori autonomi, secondo quanto ha stimato la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, e ci racconta tutto di questo studio molto dettagliato Dario Fiori, esperto appunto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Dottor Fiori, buongiorno, grazie di essere con noi e naturalmente buon anno. Avete cominciato con una ricerca molto accurata, insomma, le vacanze le avete dedicate a questo? Buongiorno. Sì, buongiorno a tutti e buon anno. Sì, diciamo il tema del regime forfettario e della cosiddetta flat tax, che come avete giustamente introdotto sarebbe dovuto entrare in vigore nel 2020, diciamo è un tema caldo per tutti i cosiddetti freelance, lavoratori autonomi che svolgono appunto in maniera autonoma e in molti casi non strutturata, no? Non avendo magari a disposizione una propria sede o comunque tutta una serie di attività e investimenti strumentali che invece di solito contraddistinguono, ecco, le imprese o studi professionali più strutturati. E diciamo noi, rispetto a quello che poi ha fatto il governo e la relazione tecnica, ci siamo concentrati proprio non sul totale dello stock, quindi anche storico, di soggetti IVA in regime agevolato, forfettario o anche minimi, ma ci siamo concentrati sul discorso delle persone fisiche e degli autonomi che hanno avuto, diciamo, l'interesse e l'occasione di aprire o comunque transitare dal regime ordinario a quello forfettario nel 2019. quindi soggetti che magari hanno fatto anche una pianificazione, perché come dicevate giustamente ci sono state, il 2019 è stato caratterizzato da un'apertura notevole al regime, perché innanzitutto i limiti di ricavi, e quello è l'apertura maggiore, sono stati incrementati a 65.000 euro per tutti i contribuenti, mentre prima, ricordiamo, c'era una diversificazione in funzione del codice di attività, appunto della tipologia di attività svolta. E poi sono stati eliminati anche i limiti relativi a beni strumentali, spese di lavoro dipendente e quella importante che avete citato, il limite dei 30.000 euro sul reddito di lavoro. Quindi abbiamo notato un boom, diciamo, di iscrizioni nel 2019, soprattutto legate anche, ecco, al mondo proprio delle professioni, del settore tecnico-sanitario, e che chiaramente, insomma, avranno una contrazione nel 2020, appunto, con particolare riferimento. Perché Fiori, qui ci sono due aspetti, diciamo, che vogliamo considerare. Da una parte, ovviamente vogliamo svolgere come sempre qui a Due Denari un servizio, fare informare gli ascoltatori, quindi 800 24 0024 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per lasciare i vostri messaggi SMS e WhatsApp, ma ricordo anche la nostra casella di posta elettronica per dubbi un po' più complicati, 2didenari@radio24.it. Allora, è cambiata la norma, quindi qualcuno si troverà a dover abbandonare questa cosa. Però la ratio, cioè il motivo per cui era stata varata questa cosa, era anche quello di far emergere un pochino di nero. Cioè, lei citava... Dire queste parole in diretta. Però, Deborah, ogni tanto bisogna essere... Di economia informale. Di economia informale. Cioè, si diceva, vabbè, ma se noi agevoliamo molto, uno non ha più interesse a restare sommerso, invisibile, ma può venire alla luce. Adesso non vorrei che ci fosse il rischio, invece, che attività che erano emerse tornano a essere sommerse. Fiori? Allora, questo sicuramente è un rischio, perché il discorso legato ai 30.000 euro di reddito sta proprio lì, cioè chi ha già un reddito da lavoro dipendente o assimilato, e quindi ricordiamo rientrano anche i pensionati, con cifre molto alte, chiaramente già si trova in uno scaglione IRPEF elevato, quindi tutto quello che si va ad aggiungere come eventuali ulteriori compensi di lavoro autonomo occasionale o lavoro autonomo svolto in maniera abituale con partita IVA, chiaramente se non rientrano nella tassazione sostitutiva del forfettario, che ha delle regole ben precise e ha una tassazione agevolata, si trovano a pagare, insomma, delle cifre molto elevate, quindi assolutamente sì, in alcuni casi possono dire ma mi conviene innanzitutto intraprendere un'attività e poi il rischio è quello anche di agevolare, insomma, in parte magari l'economia sommersa. Intanto c'è un ascoltatore che ci chiede, rimane per gli autonomi con pensione, mi pare che anche questi profili siano contemplati, no, nella rimodulazione. Sì, come dicevo, i pensionati, la norma, parliamo della lettera D ter che è stata aggiunta dalla manovra 2020 al comma 57, ripristina appunto l'esclusione dal regime per coloro che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendenti e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro. Tra gli assimilati rientrano i pensionati o ad esempio le collaborazioni coordinate e continuative. Quindi in questo caso la domanda dell'ascoltatore si deve considerare anch'esso questo nuovo limite. Potrebbe anche essere il caso di chi ricopre cariche nei collegi sindacali, ad esempio, potrebbe arrivare, anche se dovrebbe averne parecchie di queste cariche, ma può essere il caso appunto anche di questo tipo di redditi, mi pare di ricordare, Fiori. Sì, quello dipende sempre come si svolge l'attività, perché se ad esempio io da consulente, avendo una partita IVA con lavoro autonomo, faccio un'attività come sindaco in una società commerciale, per il principio di attrazione chiaramente questo reddito viene riportato nella mia partita IVA come lavoro autonomo. E quindi lei se lo regolerà con la sua cassa, sì. Certo, se lo svolgo invece come state ipotizzando voi, come attività ulteriore o comunque accessoria rispetto a magari un'attività principale che ho, può rientrare come reddito di collaborazione, quindi torniamo a quegli assimilati di cui parlavamo prima. Andiamo a Michele da Napoli, che ricade esattamente nella fattispecie che stiamo affrontando questa mattina. Michele, buongiorno, credo almeno. Sì, sono io, buongiorno. Buongiorno. Senta, no, l'informazione che chiedevo era questa: non avendo io aderito alla flat tax l'anno scorso, diciamo, mi è stato detto al mio commercialista che non potrei aderire quest'anno anche se lui ha detto che essendo cambiate le regole potrebbe essere che ci sia un'apertura per questo limite di 3 anni triennale che era stato stabilito come regime, diciamo, naturale che andava seguito. Quindi volevo sapere, certo, un po' se... Perché lei si trova, mi scusi, al di sopra di questa soglia dei 30.000 euro che abbiamo citato. Sì, al di sopra dei 30.000 euro, ma al di sotto dei 65. Però lei confidava, o meglio, il suo commercialista confida sul fatto che, avendola lanciata l'anno scorso come sperimentazione triennale, possa esserci una sorta di, così, ripescaggio. Mi sembra, devo dire la verità, mi sembra improbabile, però chiediamo il parere immediatamente al dottor Fiori. Allora, sì, forse allora, si sta confondendo, perché si parlava di superiore ai 30.000 ma inferiore ai 65.000. Il quesito è questo: se la soglia si parla dei ricavi, quindi dei compensi percepiti, o dell'eventuale altra attività svolta come reddito lavoro dipendente. Diciamo che anche Fabio, tra l'altro, tra gli SMS chiede proprio di dare una corretta definizione di questi importi. Parliamo di netto, lordo, solo fatturato e ricavi. Perfetto, appunto. Perché se provo a interpretare io il pensiero del nostro ascoltatore, se il soggetto ha superato come ricavi lo scorso anno o compensi percepiti 30.000 e sta dentro i limiti dei 65.000, può chiaramente entrare nel regime forfettario 2020, che ricordiamo è un regime cosiddetto naturale, quindi non soggiace a opzioni o vincoli. Un contribuente può, se nell'anno precedente, come dice la norma, possiede tutti i requisiti, entrare senza vincoli temporali e uscirne invece l'anno successivo ancora, qualora invece questi requisiti non vi fossero più. Quindi se si parlava di compensi superiori a 30 entro i 65, chiaramente a parità del rispetto di tutte le altre condizioni che l'ascoltatore non ci ha detto, potrebbe utilizzare nel 2020 il forfettario. Invece il limite dei 30.000 euro che impedisce, se viene superato, di aderire alla flat tax 2020, come pare essere il caso di Michele, il nostro ascoltatore, è riferito, Fiori? Il discorso dei 30.000 è riferito invece a redditi di lavoro dipendente assimilati, come dicevamo. Quindi esatto. Il contribuente il 1 gennaio 2020 vuole aprire la partita IVA, vuole transitare al nuovo forfettario, guarda l'anno precedente e vede se ha avuto un reddito ai fini IRPEF eccedente i 30.000 euro. Relativo a redditi, appunto, rapporti lavoro dipendente, collaborazione di varia natura, come abbiamo già avuto modo di spiegare, e eventuale pensione. Quindi se nel 2019 Michele avesse avuto per lavoro dipendente un reddito superiore a questo 30.000 euro o da pensione o assimilato, non può aderire. Ciò chiarito. L'unica eccezione la norma prevede qualora il contribuente cessi il rapporto di lavoro, quindi il classico caso in cui mi dimetto o vengo licenziato, insomma il rapporto finisce e avvio una nuova attività. In quel caso giustamente la ratio della norma è condivisibile, perché si vuole incentivare l'avvio di una nuova attività, invece ecco il limite, come avevate già detto voi nell'introduzione, dei 30.000 è legato a non agevolare eccessivamente chi già ha redditi medio-alti. Poi chiaramente abbiamo fatto già anche la considerazione sull'altra faccia della medaglia, sull'eventuale conseguenza sull'economia sul sommerso. Allora ci fermiamo perché è il momento del traffico. Ogni venerdì a Due di Denari torna il momento poetico. Partecipa anche tu inviandoci il tuo componimento a duedidenari@radio24.it. I versi dovranno trattare i nostri temi: investimenti, risparmi, mercati, tasse, pensioni, leggi. E l'ultima parola dovrà sempre essere traffico. Hai preso carta e penna? Ti aspettiamo! La finanza è poesia. Due di Denari. Una domanda. Se io sono un lavoratore dipendente e ad esempio ho un reddito lordo di 29.000 euro, posso scegliere di avere il regime forfettario anch'io? Che differenze ci sarebbero? Cioè non avrei più alcune detrazioni? Cosa mi cambia? Per curiosità, per capire, grazie. Fiori, stiamo parlando di questo con Dario Fiori, esperto della Fondazione Studico dei Consulenti del Lavoro, che ha prodotto anche una serie di analisi e approfondimenti su questo cambiamento della flat tax. Allora, sostanzialmente il caso prospettato dall'ascoltatore consentirebbe, stiamo sotto il limite dei 30.000 euro, di accedere alla flat tax anche con le regole 2020. Dopodiché c'è sempre questa incertezza, ma allora dopo cosa faccio con le varie detrazioni che ho in giro, che so, per i figli, per le spese mediche, per i medicinali, eccetera, eccetera? Allora qui forse vale la pena di spendere due parole, dottor Fiori. Sì, questo è sempre un grande tema che merita di essere valutato, perché poi quando si accede al forfettario bisogna sempre valutare, ecco, la situazione soggettiva di ogni persona, perché è un regime che teoricamente dà convenienza, ma in alcuni casi non può anche non darla. Faccio il caso di un contribuente che non ha un reddito di lavoro dipendente, come il nostro ascoltatore, poi ci arriverò e commenterò anche il suo caso, e magari ha più familiari a carico, ha un numero elevato di spese mediche, ha un mutuo sulla prima casa, e quindi tutte queste detrazioni le perde avendo solo il reddito da forfettario. Cosa ben diversa invece è il caso del nostro ascoltatore, che dice di avere un reddito inferiore ai 30.000, vuole aprire un'attività con il forfettario, lo può fare e può anche continuare a utilizzare, appunto, detrazioni fiscali sul reddito da lavoro dipendente. Chiudo con un'ultima novità, che è proprio della manovra del 2020, che prevede che ai fini del riconoscimento dell'aspettanza o determinazione di deduzioni, detrazioni, benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, da quest'anno si deve tener conto in dichiarazione del reddito prodotto in forfettario. Mi spiego meglio. Prima, nel caso del contribuente, le detrazioni, che sappiamo sono parametrate in funzione dell'entità del reddito, si calcolavano solo sul reddito da lavoro dipendente. Quindi quello che si produceva come forfettario non rientrava nel computo. Sì. Adesso questa è una previsione, a mio avviso mi sembra anche di equità, si dice: ok, già hai un vantaggio con il forfettario, però quando andiamo a considerare le detrazioni, le deduzioni, tutti i vantaggi fiscali, vado a prendere il tuo reddito complessivo in dichiarazione, che sarà formato dai 29.000 del nostro amico più i redditi prodotti con il forfettario. Più gli X.000, mettiamo, che produrrà con il forfettario, quindi mettiamo, non so, per farla semplice, 10.000, lui avrà un reddito sul quale saranno calcolate le detrazioni di 39.000, non più di 29.000, ho capito giusto? Sì, sì, è giusto, è proprio così, pur continuando a scontare la tassazione agevolata che abbiamo detto riguarda il forfettario, quindi certo. Il cumulo con il reddito non ci sarà, perché quello fa salire gli scaglioni, sì, come abbiamo detto prima. Ci sarà la tassazione agevolata, però ai fini del calcolo di deduzione e detrazioni, giustamente in dichiarazione si dice: tu sei un soggetto che non guadagna 29, ma magari guadagna, certo, appunto 39. E allora, per farla, proprio per concludere l'esempio, così che sia chiaro, calzante, prima di tutto a me e poi speriamo anche agli ascoltatori, sui 29.000 applicherà le aliquote IRPEF, quelle abituali, mentre sui 10.000 che ipotizziamo guadagna dall'attività cosiddetta flat tax pagherà il 15%. Mi corregga se ho sbagliato, Fiori? No, giustissimo, aggiungo solo una piccola considerazione tecnica su quei 10.000. Esatto. In realtà i 10.000 di compensi, il 15% non sarà applicato su tutti e 10.000, ma sul coefficiente di redditività applicato in funzione dell'attività svolta. Faccio un esempio: tutte le professioni sanitarie, ecco, consulenti del lavoro, avvocati e quant'altro, rientrano in una tabella che prevede un coefficiente di redditività del 78%. Che vuol dire? Se io come consulente del lavoro ho fatturato compensi per 10.000 euro, il mio reddito da forfettario sarà 7.800 e lì applicherò quel 15% di cui facevate riferimento, più i contributi chiaramente alla cassa professionale. Questo è un modo, cara Deborah, per riconoscere le spese connesse all'esercizio dell'attività, prima che qualcuno chieda come mai si viene fatto questo sconto. Questo e è il quindi motivo. Per sintetizzare un po' quella che potrebbe essere a questo punto il destino di questi 10.000 lavoratori neo iscritti al regime forfettario, che dovranno, secondo il vostro calcolo, Fiori, rinunciare all'attività autonoma, su che base adesso sceglieranno che regime fiscale applicare prossimamente alla loro attività professionale? qui secondo me ci sarà una divisione tra coloro che diranno non mi conviene assolutamente magari prendere un piccolo compenso da aggiungere al mio reddito di pensione o di lavoro dipendente, quindi cesseranno l'attività, quindi potenzialmente potremmo perdere qualche lavoratore autonomo, e mentre ci saranno coloro che invece continueranno con la partita IVA ma transiteranno al regime ordinario, quindi quello non agevolato con IVA, tassazione ordinaria e quant'altro. Mm-hmm. Quindi la considerazione è che si potrebbero perdere alcuni lavoratori autonomi. Mi ribadite i 30.000 euro netti o lordi? Fiori. I 30.000 euro sono di reddito ai fini IRPEF. Cioè, allora, quindi, il senso, provo a interpretare, è praticamente quello che andiamo a scrivere nel quadro N della dichiarazione, insomma. Perfetto. O ad esempio, per dare un riferimento ancora sulla prima casellina della CU, della certificazione unica che viene rilasciata. Quindi, sì. Il creatore lavoro rilascia una certificazione, quella è il reddito ai fini IRPEF. Che da quella casellina bisogna considerare quanto abbiamo come reddito ai fini IRPEF. Che è il reddito lordo sostanzialmente. Fiscale, che è cosa ben diversa, attenzione, dal reddito lordo previdenziale, la cosiddetta RAL, no? Cioè io ad esempio ho 35.000 di RAL, meno i contributi previdenziali che vengono trattenuti in busta paga al lavoratore, ho magari un reddito IRPEF pari a 30.000, 31.000, quindi la distinzione è sempre fra il lordo previdenziale e l'imponibile ai fini IRPEF. Comunque, ecco, per dare un riferimento diciamo operativo sulla carta, è la casellina numero uno della certificazione dei redditi dei lavoratori. Che potete chiedere all'ufficio del personale se siete lavoratori dipendenti, guardare su quanto vi ha dato l'INPS l'anno scorso per avere un riferimento se siete pensionati, potremmo dire così, Fiori. Giustissimo. Come indicazione di base, anche perché la CU, cioè la certificazione unica, arriverà soltanto tra un po' di settimane e non sarà subito disponibile. Certo. Allora, quali altre domande ci rimangono da fare? Che cos'altro dobbiamo sapere su tutta questa rimodulazione, Fiori? Quali temi ci sono rimasti fuori e che è utile trasferire ai nostri ascoltatori che magari in questo momento sono proprio alle prese con il dilemma della propria vita fiscale? Che faccio? Che cosa devo fare, visto che siamo all'inizio dell'anno e magari è il momento migliore per poter fare una utile pianificazione? Certo, allora diciamo che il grande tema l'abbiamo trattato, è quello dei 30.000. Ci sono altre due novità, diciamo, di impatto minore, ma che meritano di essere citate, ovvero la reintroduzione di un limite di spesa per lavoro accessorio, lavoro dipendenti e compensi legati a collaboratori, ovvero rispetto al limite di 30.000 è stato inserito un limite di 20.000 per il forfettario che magari ha un collaboratore part-time, un dipendente o altre forme di lavoro anche accessorio. E poi è stato inserito un regime premiale volto a incentivare l'utilizzo della fattura elettronica. Ricordiamo che i forfettari, rispetto al dibattito politico di inizio fase, insomma, di studio e predisposizione alla manovra, si era parlato anche di veramente trasformare il regime, introdurre obbligatoriamente la fattura elettronica. Tutta questa cosa non è stata poi fatta, quindi ricordiamo, i forfettari non sono tenuti all'invio della fattura elettronica, ma possono utilizzarla e qualora per la totalità delle loro fatture utilizzassero la forma XML in modalità elettronica, viene riconosciuta una piccola riduzione sui termini di decadenza per la notificazione degli accertamenti, quindi invece dei 5 anni ordinari possono essere controllati entro i 4 anni. Questa è una cosa che, diciamo, probabilmente non impatterà molto, quindi non ci sarà un reale appeal per i contribuenti che sceglieranno di utilizzare la fattura elettronica per questo motivo. Però, diciamo, è una novità introdotta e che merita di essere citata. Può essere forse, Fiori, una novità per chi magari ha un'attività per quanto minima, appunto, cioè ridotta, però già abbastanza strutturata, allora magari conviene a lui come organizzazione utilizzare la fatturazione elettronica. Sì, cito velocemente un caso. Nella mia attività professionale ho un cliente che, ad esempio, usa il forfettario, ha delle consulenze con la pubblica amministrazione, quindi è già avvezzo all'uso dello strumento della fattura elettronica nei confronti della pubblica amministrazione, che ricordiamo la normativa è diversa, però le modalità informatiche sono molto simili alla fatturazione elettronica per privati. Sì. E quindi dicevo, ecco, in questi casi ci potrebbe essere, ecco, la convenienza di dire estende, ok, allora opto e faccio tutte fatture elettroniche anche ai grazie, privati. Grazie. Allora, dov'è il nuovo lavoro del mercoledì? Anche nel regime fiscale che scegliamo per appunto essere in regola.